in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Oggi facciamo una cosa un po' diversa, forse perché il sabato si ha un pochino più di tempo per leggere. Invece dei quotidiani guardiamo ai settimanali, a quello che è uscito nella settimana scorsa, che quindi si può approfondire. Però iniziamo, come sempre faccio quando guardiamo i quotidiani italiani, dal Sole 24 Ore, perché da ieri, da venerdì, è in edicola il numero di agosto di How to Spend It, che è uno dei due magazine mensili del Sole 24 Ore. Non poteva che essere dedicata la copertina alle Olimpiadi. In copertina c'è Marco Balic, che è l'ideatore, un italiano di origine veneziane, che è l'ideatore, il coordinatore della cerimonia di apertura. È stato, potremmo dire a questo punto, della cerimonia di apertura di ieri, ma è comunque lui ha passato tantissimo tempo a Rio e probabilmente si fermerà per tutte le Olimpiadi. Tra l'altro è già la terza cerimonia di inaugurazione di Olimpiadi che firma, e quindi ci racconta la sua Rio su How to Spend It nell'ultima pagina. Il weekend perfetto, ci dà tutte le sue dritte. Nel numero, in generale, in questo numero del magazine, molto dedicato alle vacanze, all'evasione, possiamo dire. Vi segnalo anche, oltre appunto a questa testimonianza diretta di Marco Balic, un approfondimento di Luca Bergamin, che trovate le pagine 12 e 13, sulla tecnologia, come la tecnologia sta entrando prepotentemente nello sport. Il titolo è Allineati... oddio, non trovo la seconda parte. Allineati al via, punto esclamativo. Che siano solo una passione da poltrona o lo spunto per ritrovare la voglia di allenarsi, le Olimpiadi di Rio offrono l'occasione per esplorare la wearable technology e anche per capire che cos'è la domotica in casa, rinnovando così il parco high-tech con device e attrezzi a prova di photo finish. E poi una bellissima testimonianza raccolta dal direttore di How to Spend It, Nicoletta Polla Mattiot, che ha parlato con Salvatore Natoli, il filosofo e docente anche di filosofia. Il titolo è Tenersi a cuore, aver cura di sé. Questo dovrebbe essere l'imperativo per tutti noi, e forse anche uno dei tanti significati della parola lusso, che però non sempre insomma si riesce a praticare questo lusso tutto dedicato a se stessi, che poi in quanti modi diversi si può dire. Insomma, se ci si vuole bene, se ci si tratta bene, quasi certamente si vuole bene e si trattano bene anche gli altri. A proposito di Olimpiadi, invece, dal supplemento che la Repubblica ha legato per guidarci un po' in queste settimane di giochi olimpici, vi segnalo due pezzi: uno di Massimo Calandri, che ci parla del rugby, e uno di Massimo Mazzitelli, che ci parla del golf. Perché proprio questi due sport? Perché sono tornati dopo tantissimo tempo alle Olimpiadi, anzi il rugby proprio debutta alle Olimpiadi, o meglio, anche in questo caso è stata un'assenza molto lunga. Il rugby mancava dai giochi del 1924, e invece il golf ha dovuto aspettare ancora di più, 112 anni, perché le due sole apparizioni di questo sport erano state nel 1900 a Parigi e nel 1904 a St. Louis negli Stati Uniti. Quindi golf definito uno sport da scoprire, green, buche e VIP, ma non tutti si daranno al golf. E invece per quanto riguarda il rugby, che sorpresa, il rugby a 7, paradiso delle Fiji, perché appunto è stata adottata questa formula particolare. In generale il rugby che siamo abituati a seguire, e qui a Radio 24 con Giacomo Bagnasco i nostri ascoltatori sicuramente lo seguono, è fatto da squadre composte da 15 persone. Qui invece sono 7 contro 7, e i tempi sono ridotti, sono i tempi dei due, la lunghezza dei due tempi di gioco è ridotta di 7 minuti. Dalla lettura del Corriere della Sera, che trovate in edicola ancora oggi, poi domani invece ci sarà un nuovo numero, vi segnalo la lettura in anteprima dell'imminente nuovo libro di Jay McInerney, fatta da Matteo Persivale. Jay McInerney divenne famosissimo negli anni 80 per il suo romanzo d'esordio Le mille luci di New York, poi ha un po' passato la vita a cercare di eguagliare quel successo enorme con alterne fortune, perché ne ha pubblicati tanti di romanzi. Poi è diventato anche critico enologico, scrive per il Wall Street Journal di Vini e anche per la rivista Town & Country. Adesso però sta per uscire questo nuovo libro, che si intitola Bright Precious Days, in italiano La luce dei giorni, e scrive Matteo Persivale. È il primo romanzo di McInerney dopo una pausa lunga 10 anni, nella quale ha pubblicato racconti, si è sposato per la quarta volta, ha continuato la sua attività di critico di vini, prima per il Wall Street Journal, poi per Town & Country. Bright Precious Days è un romanzo sui fantasmi del passato, il passato come palla al piede, ma anche a volte come scialuppa di salvataggio, sulla fragilità del sogno americano in generale e in particolare del sogno culturale aspirazionale di una certa America, quella per l'appunto che vede in New York il centro del mondo, culturale e non solo. È un romanzo sulla delusione delle proprie aspettative, sulla propinquarsi della mezza età anagrafica e dello spirito. E poi l'ultima parte, perché questa lunga recensione è su 2 pagine, conclude Matteo Persivale. Fernanda Pivano, che a Jay ha voluto bene e che lo aiutò con generosità, scrisse che sarà lui a rappresentare l'America di questo mezzo secolo, come è stato lui a studiarla, conoscerla e spiegarla più di chiunque altro. E comunque, se davvero McInerney verrà ricordato tra 50 o 100 anni per Le mille luci di New York e soltanto per quel libro, si può rammentare quello che Orson Welles da vecchio spiegò a Peter Bogdanovich. Il giovane regista si stupiva di come Greta Garbo continuasse a essere considerata una leggenda, anche se, a ben guardare, era apparsa soltanto in 2 film davvero grandi. L'anziano maestro, l'ex ragazzo che a 26 anni aveva girato Quarto potere per poi passare il resto della vita e della carriera a rincorrere nei meandri del suo talento senza fine il miraggio di quel successo irripetibile, disse che non c'era bisogno di fare 2 capolavori, ne basta uno. E questa era appunto la lettura che ci anticipa, ci stuzzica sulla lettura del prossimo libro di Jay McInerney. Una interessantissima intervista invece a Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, qui sul supplemento anche questo settimanale della Repubblica. Vi leggo alcune domande che riguardano in particolare il giornalismo e il futuro dei giornali. Perché sapete che Jeff Bezos, come non è l'unico caso, però forse è il caso più famoso, ha comprato il Washington Post, che era un giornale, è uno dei giornali più importanti generalisti degli Stati Uniti, ed era profondamente in crisi. Gli chiede Massimo Russo. Va bene la tecnologia, ma di recente avete anche aperto librerie fisiche. E Jeff Bezos risponde: è un esperimento, perché il paradosso naturalmente che tutti hanno molto sottolineato è che la più grande libreria online al mondo, che poi ha iniziato con i libri ma ora vende di tutto, dalle carote ai passeggini per bambini, a tutto quello che potete voler desiderare di comprare su Amazon c'è, però è ancora identificata come appunto la libreria online più grande del mondo. E Jeff Bezos risponde: questi negozi fisici, a insegna Amazon, sono un esperimento. La velocità con la quale lo estenderemo dipende da quanto saremo in grado di capire. Vogliamo essere certi che abbia un senso. E poi questa io non sapevo di questa cosa, ma l'intervistatore gli dice: Amazon ha anche una cultura specifica. In azienda, ad esempio, sono vietate le presentazioni con il PowerPoint. Sì, risponde Jeff Bezos, devi scrivere frasi complete con verbi, nomi, argomenti, paragrafi. Il problema delle presentazioni è che sono facili da fare per l'autore, perché basta mettere in fila una lista di punti, ma difficili per chi ascolta. Quando devi scrivere un documento di 6 pagine, sei costretto a capire il tuo pensiero. Se scrivo, io stesso mi accorgo di aver capito meglio cosa volevo dire. Le nostre riunioni durano un'ora, un'ora e mezza. I primi 30 minuti li passiamo in silenzio, leggendo il documento e prendendo appunti. Dopo si discute. Leggere in silenzio migliora la qualità della conversazione. E poi, a proposito di un lungo articolo che era anche stato tradotto in Italia da Internazionale, che addirittura gli aveva dedicato la copertina, un lungo articolo uscito lo scorso anno sul New York Times, molto critico nei confronti di Amazon e soprattutto delle condizioni di lavoro della maggior parte dei dipendenti di Amazon negli Stati Uniti. Quindi Massimo Russo chiede: Amazon è conosciuta per il suo rigore e frugalità, ma l'anno scorso un'inchiesta del New York Times denunciò un clima di pressione eccessiva sui dipendenti. Come reagisce a queste critiche? Il public editor del New York Times, una figura che in Italia non esiste, è una persona all'interno del giornale che si incarica di rispondere alle critiche che le persone di cui si parla negli articoli, o magari anche i lettori, fanno appunto agli articoli apparsi sul giornale. Quindi Jeff Bezos aveva protestato, il public editor ha riconosciuto, dice Bezos, che in quell'articolo c'erano molte imprecisioni, così come spiegammo noi, ma la miglior risposta che posso darle è che non si può fare quel che facciamo con persone infelici che trascorrono la giornata a guardare l'orologio. Ci vuole creatività, devi svegliarti sotto la doccia pensando ai tuoi clienti, devi avere persone coinvolte che trovino un senso in quel che fanno. Una cosa giusta quell'articolo però la diceva, che lavoriamo duro, ma non penso che siamo i soli, ci vogliono persone cui piaccia il cambiamento, altri preferiscono la stabilità, internet non è il giusto posto per loro. Che è sicuramente una cosa da una parte un po' inquietante, ma molto vera, e la velocità dei cambiamenti su internet, e che da internet si sono poi estesi a tanti altri settori della società, è innegabile. Passiamo a un altro articolo che sempre tratta di America, io ho trovato molto interessante. Non sempre sono d'accordo con le tesi di Federico Rampini, che però è un profondissimo conoscitore dell'America, è stato inviato di Repubblica ed è ancora inviato di Repubblica lì, e in questo articolo apparso su DD Repubblica ci racconta alcune delle sue impressioni dalla convention repubblicana di Cleveland, e il titolo è "Vedi Cleveland e poi pensi, povera America". È un articolo divertente ma anche amaro, perché comunque ci racconta quello che ha visto, e che è un'immagine molto diversa dell'America da quella che si può avere appunto quando si visitano città come New York. Scrive Federico Rampini: "Non voglio parlare di politica, neanche di economia, per carità, se tanti giovani italiani sono costretti a cercare lavoro in America è ovvio che qualcosa non funziona da noi, però a quelli che restano, nonostante tutto, voglio dedicare questo raffronto consolatorio". E qui appunto racconta di come soprattutto lo abbia colpito in una deep America come Cleveland la scarsissima qualità dell'alimentazione, e anche quindi la conseguente, perché le cose sono quasi sempre legate, la conseguente diffusissima obesità. E racconta che quando è arrivato alla sua scrivania c'erano due persone che se ne sono subito andate, riconoscendo che quello era il suo posto, e dice: "Hanno impiegato un buon quarto d'ora a liberare il tavolino, pieno di avanzi alimentari, un'orgia di cibo spazzatura che emanava odori nauseabondi. I due colleghi, peraltro, avrebbero fatto meglio a digiunare. I sederi e le pance erano un grido d'allarme per la loro salute. Per una sola ragione potevo invidiarli: i loro strati di grasso li proteggevano dal gelo. Con 30 gradi esterni a Cleveland, l'impianto di aria condizionata dentro il palazzetto dello sport creava un clima polare. Perfino tra poliziotti del servizio d'ordine la percentuale di obesi era raccapricciante. Quello che ho scritto qui sopra", scrive, sto saltando alcuni pezzi, "ma quello che ho scritto qui sopra può espormi all'accusa di razzismo anti-americano? In effetti non è colpa loro se sono nati in città tanto brutte da sembrare oscene rispetto alle nostre, se fin dalla tenera infanzia sono stati nutriti a junk food, se la natura e la storia non li hanno educati alla raffinatezza culturale degli italiani. Rischio lo snobismo elitario quando osservo dall'alto in basso, con un interiore senso di disgusto, il popolo ignorante, rancoroso e arrabbiato che si accende di entusiasmo per l'impostore Trump. Devo trattenermi e rovesciare tutto in positivo. Voi che in Italia ci vivete, per favore, non dimenticate mai per un solo istante che è il paese più bello del mondo. Chi di noi deve allontanarsene lo fa per sacrosanti motivi, ma paga un prezzo vero nella qualità della vita". E invece a proposito di viaggi, a proposito di soprattutto in estate, di lasciare la propria casa, vi segnalo il numero speciale di Internazionale, che è in edicola da venerdì scorso e lo sarà ancora per tutta la prossima settimana, perché in estate Internazionale, così come a cavallo di Natale, ha un numero doppio che è dedicato alle storie, e in questo caso infatti in copertina c'è un disegno, una mano che tiene un aeroplanino di carta sul quale c'è un ragazzo con uno zaino, e chiaramente in partenza per le vacanze. Una delle storie più belle, ma ce ne sono tante all'interno di questo numero di Internazionale, si chiama "Requiem per un fiume", l'ha pubblicato l'Economist, e è il reportage di un giornalista che, con le foto, tra l'altro fotografie bellissime, di un fotografo italiano, Andrea Di Biagio, che ha fatto un viaggio lungo il Mekong, che è un lunghissimo fiume cinese, dalla Cina al Vietnam, e ha soprattutto si è fermato dove c'erano le dighe che hanno quest'anno minacciano la vita e l'economia di milioni di persone e non copriranno il fabbisogno energetico di una regione in rapido sviluppo. Le dighe sono sicuramente sempre un tipo di infrastruttura molto controversa. Anche qui a Radio 24 Laura Bettini all'Altro Pianeta ha raccontato della grande diga che si vorrebbe costruire in Amazzonia, perché se da una parte servono per appunto avere energia da fonti rinnovabili, sconvolgono spesso l'ecosistema e quindi la vita delle persone che vivono nei paraggi del fiume dove poi sorge la diga. Ci fermiamo però un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli. Benvenuti a questa rassegna dei settimanali anziché dei quotidiani, e quindi prendiamo i due news magazine per eccellenza italiani, Panorama e L'Espresso. Panorama è in edicola da giovedì e L'Espresso invece è in edicola da venerdì scorso, ma lo troverete ancora oggi, mentre domani, per la prima volta nella sua storia, L'Espresso sarà in edicola di domenica insieme a Repubblica. Questo perché questo numero che abbiamo in mano noi è l'ultimo firmato dal direttore Luigi Vicinanza, che adesso passa il testimone a Tommaso Cerno, che all'Espresso aveva già lavorato, poi è stato per 2 anni al Messaggero Veneto rilanciandolo e ora diventa direttore dell'Espresso da questo prossimo numero, che appunto vedremo domani, intorno al quale c'è molta curiosità. Tommaso Cerno è secondo me uno dei più brillanti giornalisti italiani, tra l'altro ha 41 anni, quindi giovane per gli standard italiani. Ma la copertina di quello della settimana scorsa era dedicata ai Panama Papers, la grande inchiesta su questi conti offshore a Panama, e uno degli ultimi risvolti di questo scandalo, potremmo dire fiscale, è che ci sarebbero i documenti che dimostrano che ci sono state delle mega tangenti ENI transitate anche attraverso questi conti e Panama. Sempre sul numero della scorsa settimana, che appunto trovate ancora, c'è un'inchiesta sulla fertilità di Annalisa Bonfranceschi, che si intitola "Metti il figlio in frigorifero". Sempre più donne fanno congelare i propri ovuli attorno ai 30-35 anni, rimandando la gravidanza a più tardi, un modo per bilanciare i tempi biologici e quelli della società, con tutti però naturalmente anche i risvolti bioetici che questo ha. La copertina di Panorama invece è dedicata ai tatuaggi, c'è una ragazza seminuda, ahimè, della quale vediamo la schiena interamente tatuata, ma l'inchiesta all'interno è molto interessante, richiamata così: giovani di mezza età, anziani, ci mancano solo i bambini, ormai il tatuaggio dilaga e se cercate attentamente, magari ben nascosto, scoprirete che ce l'hanno tanti insospettabili caduti in tentazione. E trovate poi appunto tutto questo reportage, questa storia di copertina a partire da pagina 35. Si parla di delle convention, dei tattoo, dei posti dove fare, si spiega quali sono le minime precauzioni da prendere e anche per i pentiti del tatuaggio come e se è possibile a un certo punto rimuoverlo. E poi un altro divertentissimo articolo che prende spunto da un libro che è appena uscito in America, tra l'altro abbiamo parlato poco fa di Amazon, potete comprarlo su Amazon in inglese, che si intitola The Trainable Cat, cioè il gatto addestrabile. Il titolo del pezzo è appunto "Addestrami!", punto esclamativo. Anche il gatto può essere educato proprio come il cane, lo dicono questi due esperti inglesi, e così avremo un gatto gentile e ubbidiente, punto o no. Siamo tutti un po' scettici noi proprietari di gatti sulla possibilità di addestrarne uno o di farlo diventare gentile se in quel momento il gatto non volesse. Dai settimanali ce n'è uno molto particolare che forse conoscete, che è quello che viene allegato alla stampa di ogni giovedì, si chiama Origami, si chiama così perché se lo si vede sembra un foglio A4, poi in realtà si può aprire e già comunque lo si vede all'interno, ma per leggerlo tutto bisogna proprio stenderlo su un ripiano il più grande possibile, perché è fatto proprio come una specie di origami, di puzzle di articoli. Questo numero è dedicato al gioco. E vi segnalo in particolare un articolo di Piero Bianucci, che è un grandissimo divulgatore un giornalista scientifico che per 25 anni ha diretto il supplemento di scienza della stampa che si chiama Tutto Scienze, e qui ci dice, si pone questa domanda: sei stato Lego o Meccano? Il destino in un mattoncino, e ci racconta come Harold Kroto, premio Nobel per la chimica, diceva di saper distinguere chi da piccolo aveva giocato con il Meccano da chi aveva giocato con il Lego. I primi chiudevano delicatamente il rubinetto del lavandino, i secondi lo stringevano rovinandone la guarnizione. Lui, il chimico, aveva giocato con il meccano, che richiede di immaginare un oggetto e montarlo con viti e bulloncini. Forse per questo scoprì il fullerene, una molecola oggi alla base delle nanotecnologie. Però sia il meccano sia il Lego sono giochi di costruzione, e appunto secondo Piero Bianucci, che naturalmente attinge anche a tante teorie di pedagoghi e scienziati, sono giochi che comunque aiutano, sviluppano la capacità, la passione anche per costruire un qualcosa magari dal niente, perché poi sappiamo che chiunque giochi col meccano con il Lego, magari quando toglie tutto dalla scatola lo fa esattamente secondo le istruzioni, e poi invece la fantasia può scatenarsi e creare delle cose che non sono riportate sulle istruzioni per l'uso di questi giochi. E ancora un titolo un po', insomma, non pesante, ma molto serio, che è quello dell'Economist di questa settimana. Il disegno è apparentemente quello delle piramidi con il sole all'orizzonte, ma su queste piramidi c'è anche un grafico, quei grafici a zigzag che usiamo spesso per indicare, purtroppo di questi tempi, gli andamenti delle borse, per esempio. È un grafico che naturalmente va al ribasso. Il titolo della storia di copertina è The Ruining of Egypt, cioè come rovinare l'Egitto. E ci sono all'interno molti, c'è uno degli articoli principali della prima parte che l'Economist definisce leaders, uno è dedicato all'Egitto, ma poi ce ne sono anche tanti altri per cercare di capire appunto quale potrebbe essere il futuro dell'Egitto, che ancora dal punto di vista politico è molto incerto. Sempre settimanali, il venerdì, in edicola ieri con la Repubblica, dedica la storia di copertina a un reportage di Enrico De Aglio e con un lungo articolo di Silvia Fumarola sui Beatles. Perché? Perché Ron Howard, il famoso regista e naturalmente ex ragazzo della mitica serie Happy Days, è tornato tutto sommato negli anni in cui anche la serie era ambientata, per parlare dei cosiddetti Fab Four, che sta per Fabulous Four, cioè i quattro fantastici, i Beatles naturalmente. Il titolo della storia di copertina è Gli Happy Days dei Beatles, e all'interno trovate appunto questo racconto di come è nato questo documentario, nato naturalmente da una passione di Ron Howard per la musica dei Beatles e per loro come personaggi, ma che racconta un'epoca, non soltanto la loro musica. All'interno anche un interessante reportage di Alex Saragosa sugli errori giudiziari. Pensate, ogni anno in Italia 1.000 persone sono risarcite per ingiusta detenzione. Psicologi e altri esperti illustrano fase per fase i punti più a rischio di un'inchiesta. E poi una storia bellissima, quella di Pandit Chaurasia, che ha 78 anni, ci racconta Raimondo Bultrini, è considerato il più grande virtuoso del mondo del flauto. Iniziò, parlando di Beatles, iniziò i Beatles ai segreti delle note sacre del ragga, quel tipo particolare di musica indiana. Oggi diffonde il suo messaggio di pace. E questo è su Repubblica. E poi vi segnalo, a proposito di pace, che speriamo arriverà il più presto possibile tra Israele e Palestina, in generale in Medio Oriente, un reportage bellissimo, un articolo bellissimo apparso sul foglio settimanale di sabato scorso di Giulio Meotti, che si intitola Crescete e moltiplicatevi, dove si racconta, e per me è stata una sorpresa, forse anche per alcuni di voi, altri invece magari lo sapevano, un solo paese occidentale e ricco continua a fare figli, Israele, miracolo della democrazia in guerra. E vi leggo alcuni passaggi di questo articolo. Israele può vantare molti record. In 30 anni il suo prodotto interno lordo è aumentato del 900%. La pressione fiscale è scesa dal 45 al 32%. Gli aiuti americani erano il 10% del PIL, oggi sono solo l'1%. Le esportazioni sono aumentate dell'860%. 30 anni fa Israele non aveva fonti indipendenti di energia, mentre oggi il 38% proviene dalle proprie risorse. E non c'era acqua desalinizzata 30 anni fa. Oggi oltre il 40% dell'acqua consumata proviene da impianti di desalinizzazione. Un recente studio condotto dall'Economist ha cercato di indovinare dove sarebbe meglio vivere nel 2030. Israele è al 20° posto, prima di Regno Unito, Francia, Italia e Giappone. I tassi di mortalità in Israele sono i secondi più bassi dell'OCSE e per il Wall Street Journal Israele è il secondo paese più colto del mondo, dietro il Canada e prima del Giappone. Da anni gli israeliani sono più felici di quanto non siano la maggior parte delle persone nel mondo occidentale. E poi l'accenno alla parte demografica: se i tassi demografici rimarranno inalterati, Israele avrà una popolazione più grande della Polonia nel 2085. Ancora più notevole è che Israele avrà in assoluto più giovani rispetto all'Italia o alla Spagna e un numero pari a quelli della Germania alla fine del secolo, se il tasso di incremento della fertilità rimarrà invariato. Un secolo e mezzo dopo l'Olocausto, cioè, lo Stato ebraico avrà più uomini in età di vestire una divisa e sarà in grado di mettere in campo un esercito di terra più grande di quello della Germania. Il 28% degli israeliani ha meno di 15 anni, il 10% ne ha più di 65, a fronte di proporzioni europee del 16% per entrambi. E invece passiamo a cose un pochino più leggere. La copertina di Vanity Fair, che è in edicola da mercoledì scorso a Milano, da giovedì in tutta Italia, e che non sarà in edicola la prossima settimana perché è un numero doppio per l'estate. In copertina c'è Selena Gomez e poi dentro trovate una lunga intervista, ma vi segnalo in particolare che anche Vanity Fair, un po' come ha fatto Internazionale, per favorire appunto la lettura in questi giorni di per molti vacanza, pubblica dei racconti sotto l'ombrellone con un mitico e cinque grandi. Vanity Fair non poteva concedersi una settimana di vacanza senza regalare a lettrici e lettori un extra molto speciale. La prima traduzione italiana dell'ultima controversa long story di un mito della non fiction americana, che è gaetanese, e cinque racconti inediti firmati dai finalisti di un premio della narrativa italiana. Tempo di lettura complessivo, perché Vanity Fair fa questo giochino che in fondo a ogni articolo scrive sempre tempo previsto di lettura, per tutto questo, cioè un racconto, una long story e cinque racconti brevi, 2 ore e 24 minuti. Sono sicura che tutti possiamo trovarli, e se non vogliamo leggere i racconti di Vanity Fair possiamo leggere tante altre cose, l'importante è farlo. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, noi ci risentiamo lunedì per la rassegna stampa dei quotidiani.